Bene, cari studenti vicini e lontani, il Ministero ha emanato una circolare in cui si dice che questa didattica a distanza non deve limitarsi alla condivisione di materiali, ma deve comprendere anche lezioni così in viva voce. Quindi ho pensato di fare questa audio lezione, non amando essere ripreso né fotografato, e sapendo anche che queste trasmissioni in streaming, queste robe così, insomma, creano problemi tecnici, spesso si inceppano, insomma, si bloccano. Io poi ho Linux perché è gratis, non ho Windows, quindi quell'aggeggio di Google non lo posso installare, e anche i due tizi di Google mi stanno antipatici, quindi non ho voglia di mettere quella robaccia sul mio computer. Allora, visto che in tempi di crisi e di emergenza bisogna ridurre tutto all'essenziale, e beh, insomma, io tendo a ridurre tutto all'essenziale anche senza crisi. Comunque, così, anche per rompere gli zebedei il meno possibile, che è un po' la mia filosofia di vita, ho pensato di fare questa audio lezione che ognuno può ascoltare o non ascoltare. Magari ascoltate Bach, ascoltate Wagner, insomma, meglio della mia non video lezione, audio lezione, ma comunque, insomma, dovreste ascoltarla. E vabbè, potete ascoltarla quando volete, onde così rispettare onde garantire, insomma, la flessibilità, insomma, come si dice, la flessibilità, insomma, nella fruizione di questi materiali virtuali. Vabbè, il carme dei sepolcri non è una poesia, mi raccomando, è un carme in endecasillabi sciolti. Endecasillabi sciolti significa endecasillabi privi di rima, non sono versi liberi. I versi liberi sono versi privi di regolarità metrica. Lì ci sono un paio di appassionati di metrica, per quel che ricordo, ma insomma, comunque, no, i versi liberi sono quelli privi di regolarità metrica. Versi di misura diverse che combinano misure, unità metriche, cola metrici, non c'entra la Coca-Cola, sono i cola metrici, insomma, si chiamano così, e mistichi, insomma, porzioni diverse di lunghezza, di ritmi differenti. L'endecasillabo sciolto invece è metricamente regolare, sono tutti endecasillabi, ma senza rima. Foscolo scrive, non ricordo dove, insomma, riporta l'opinione di un umanista, il quale sosteneva che non potesse darsi vera poesia epica se non in versi sciolti, in versi senza rima, per l'ovvia ragione che, come è ovvio, Omero e Virgilio non usavano le rime, perché nella poesia greca e latina, perlomeno nella poesia greca e latina di età classica, non c'erano le rime. La rima compare in contesti bizantini o in contesti di latinità medievale, insomma, in contesti tardi. Nella poesia classica non c'è nella poesia greca e latina classica non c'è la rima. Ma ecco, la poesia dei sepolcri, che è una sorta di carmen perpetuum, per usare una espressione ovidiana, o se preferite una sorta di poesie en interrompu, per citare Paul Éluard, poesia ininterrotta, insomma, no? Un continuo, così, assiduo fluire e susseguirsi di pensieri e di immagini, avrebbe mal tollerato le barriere e i vincoli della strofa, insomma, della terzina, dell'ottava, no? Questi schemi precostituiti. Peraltro, l'endecasillabo sciolto aveva già una discreta tradizione, no? Forse l'antecedente più diretto, e su questo torneremo, è Vincenzo Monti, no? Che traduce l'Iliade in endecasillabi sciolti, ma anche Ippolito Pindemonte, a cui sono dedicati fra l'altro i sepolcri, usa l'endecasillabo sciolto per tradurre l'Odissea. Abbiamo visto un esempio di endecasillabo sciolto già in Vincenzo Monti, l'infinito di Leopardi, come sapete, scritto in endecasillabi sciolti, forse l'esempio più celebre della libertà espressiva garantita dall'endecasillabo sciolto, libertà e regola, perché c'è il vincolo della regolarità metrica, non sono versi buttati lì a casaccio, ma non c'è la rima, non c'è il vincolo della rima. E questo garantisce maggiore flessibilità espressiva, appunto, al poeta. Non leggeremo i sepolcri per intero. Può sembrare una bestemmia leggerli a frammenti, ma io sono convinto che nel caso della poesia la lettura frammentaria sia quella migliore, perché consente di soffermarsi sui dettagli salienti, insomma. Come diceva Abi Warburg, il grande iconologo, riferendosi all'arte figurativa, il buon Dio si vede nei dettagli, e lo stesso vale forse per la letteratura, e con la lettura frammentaria così si fa anche prima, e questo non, e si rompono meno le scatole, e questo è un vantaggio non da poco. Dunque, il Carme si apre con una celebre domanda retorica. All'ombra dei cipressi dentro l'urne confortate di pianto, è forse il sonno della morte men duro? Ove più il sole, ecco, si apre con una domanda retorica, la risposta è no, sarebbe num in latino, non una domanda retorica. Paradossalmente il Carme dei Sepolcri, che celebra l'importanza appunto dei sepolcri come testimonianza, memoria, celebrazione, monumentum, no? C'è quella celebre ode di Orazio, exigi monumentum aere perennius, no? Ed è il monumento più duraturo del mondo. Di solito si traduce monumento, ma monumentum significa monumento, ma anche celebrazione, ricordo, testimonianza e anche sepolcro, appunto, no? Paradossalmente la vita eterna, la sopravvivenza eterna, che scaturisce proprio dalla morte, e ha la morte come proprio presupposto. Tel qu'en lui-même enfant l'éternité l'échange, no? Come dice Mallarmé. Tal che in se stesso infine l'eternità lo muta, ecco, questo è il poeta, verso rimasto celebre. Soltanto l'eternità conferisce al poeta il proprio vero significato, o come diceva in modo più prosaico Umberto Saba, il poeta è come il porco, si pesa quando è morto, è così. Allora, dunque, ecco, questa domanda retorica contiene il primo dei numerosi echi, se non dei, beh, non dico plagi perché sarebbe offensivo, ma insomma, le tante fonti di ispirazione a cui il poeta attinse a piene mani, e alludo ad un testo che abbiamo già letto in classe, Thomas Gray, la elegia scritta in un cimitero campestre. An elegy written in a country churchyard. La pronuncia è quella che è, ma insomma, ognuno fa quello che può. Già l'animato busto o l'urna effigiata al primo albergo può richiamare lo spirito fugace? Può risvegliare la taciturna polve, cioè la polvere silenziosa, la polvere dei morti, voce d'onore o adulatrice lode, il freddo orecchio lusingar di morte? Ecco, questa è mia moglie che sta cercando di dormire, insomma. I sepolcri non sono proprio, insomma, soprattutto in questa congiuntura sfavorevole, ecco, un sottofondo idoneo, poi agli incubi dopo, ma io, ho approfittato appunto della pace notturna, insomma, per amica silenzia lune, come dice il poeta, insomma, no? per creare questo capolavoro di, ecco, didattica innovativa. Cerco di parlare sottovoce, insomma, aspetta, avvicino, tanto sto a fare questo aggeggio, speriamo poi che si registri, ma comunque vabbè, adesso parlo piano, voi alzate il volume, no? Poi, beh, i sepolcri si leggono anche meglio, no? Con questa voce così cavernosa. Ecco, stavo dicendo, sì, l'elegia di Thomas Gray che ho letto nella traduzione di Melchiorre Cesarotti, quella traduzione che abbiamo visto in classe. Quindi paradossalmente proprio questo Carme che celebra l'importanza dei sepolcri, no? C'è questa, in epigrafe c'è questa espressione latina, Deorum manium iura sancta sunto, questo splendido imperativo futuro che dà un grande senso di solennità. Una citazione, se non ricordo male, dalle Leggi delle 12 tavole riportate da Cicerone nel De Legibus. No, sarebbe la lettera, siano sacri, siano inviolabili i giuramenti fatti in nome degli dei inferi, o meglio, dei manes, sono gli spiriti degli antenati, insomma degli dei mani. Ecco, paradossalmente proprio questo Carme, per fortuna che dovevo essere sintetico, insomma, hanno detto che Carme, che celebra l'importanza dei sepolcri, sembra iniziare con una negazione del valore e dell'importanza dei sepolcri stessi. Foscolo sembra negare che i sepolcri, con la memoria che portano con sé, possano mitigare il dolore per la perdita. Ove più il sole per me alla terra non fecondi questa bella d'erbe famiglie ed animali, e quando vaghe di lusinghe innanzi a me non danzeran l'ore future, né da te, dolce amico, udrò più il verso e la mesta armonia che lo governa, né più nel cor mi parlerà lo spirito delle vergini muse e dell'amore, unico spirito a mia vita raminga, qual fia ristoro ai diperduti un sasso che distingua le mie dalle infinite ossa che in terra e in mar semina morte? Beh, è inutile che vi faccia la parafrasi letterale, no? Parola per parola, perché come diceva il grande San Girolamo, bisogna sensum e sensu, non verbum e verbo expromere. Non bisogna, insomma, bisogna cogliere il senso, insomma, non tradurre parola per parola. Beh, tradurre in questo caso, commentare. Ad ogni modo, il discorso generale è questo, insomma, quando la luce del sole, che è simbolo di vita e di fecondità, non illuminerà più, non rinfrancherà più questa bella d'erbe famiglie d'animali. Beh, questa espressione bellissima, ma non di Foscolo, rubata a Vincenzo Monti per la precisione. La bellezza dell'universo, l'abbiamo anche letto in classe, la vaga delle belve ampia famiglia. Questo verso proprio sintetizza quello che oggi viene chiamato ecosistema, no? Beh, la bella d'erbe famiglia d'animali. La grande sinergia e l'interconnessione, insomma, fra i diversi regni, le diverse sfere della vita. Già Platone nel Timeo, no? Dice c'è questa megale psiche, questa grande anima che imbeve, che permea di sé tutto il mondo, no? Il pianeta come un unico grande essere vivente, di cui le singole creature sono soltanto fibre o cellule. E quando le ore sono personificate, no? Per dire quando il futuro non mi sorriderà più, ma qui dice quando le ore non danzeranno più davanti a me, vaghe di lusinghe, cioè piene di promesse, di possibili gioie. Né da te, dolce amico, qui il dedicatario Vincenzo Monti, no? Udirò più il verso, è la mesta armonia che lo governa, la malinconica armonia che governa il verso di Ippolito Pindemonte. Ippolito Pindemonte oggi è piuttosto dimenticato, cioè, a parte la traduzione dell'Odissea, che però non ha avuto la stessa fortuna, non è studiata come l'Iliade di Monti, ma Pindemonte era un tempo almeno ricordato per una odicina alla malinconia, no? Malinconia, ninfa gentile, no? Questa mesta onesta armonia, cioè questa vena di origine un po' arcadica, no? Quindi questo canto così esile, malinconico, dolce, elegiaco, appunto, no? Mai più nel cor mi parlerà lo spirito delle vergini muse e dell'amore. Carlo Emilio Gadda ironizzava sull'abuso di questo aggettivo vergine da parte di Foscolo. Dice, per Foscolo sono tutti vergini, no? Perfino Venere è vergine. Ma cioè, dice, qui vergine nacque, il greco mar da cui vergine nacque Venere. Gadda, dicevano, endecasillabi che fanno ridere i polli, no? Dava un giudizio terribilmente negativo, no? Su Foscolo. In realtà qui, no? Insomma, in Foscolo vergine significa puro, originario, aurorale, incorrotto, no? Un po' come Baudelaire, no? Le vers amours des amours enfantins, insomma, i verdi amori degli i verdi. Adesso non me lo ricordo di memoria, non posso inventare Baudelaire, ma insomma. Questo vagheggiamento della classicità come una patria perduta, come una sorta di paradiso da cui l'uomo è, da una sorta di originaria armonia fra uomo e natura che ormai nella modernità si è irrevocabilmente infranta. È la mesta armonia che lo governa. Qui Foscolo continua a rubare dalle poesie di Monti a piene mani. Per lui natura si feconda e ride, cioè tramite il sole sarebbe. Per lui la danza armonica si alterna delle stagioni. Foscolo fondamentalmente qui fa una sintesi dei motivi principi, di alcuni motivi della poesia di Vincenzo Monti, che fu un serbatoio inesauribile per i poeti venuti dopo di lui. Un grande maestro dimenticato, forse Vincenzo Monti, che andrebbe riletto attentamente. Ma ecco, né più nel cor mi parlerà lo spirito delle vergini muse dell'amore, unico spirito a mia vita raminga, lo spirito nel senso di spiritus, di vocale spirito, per usare un'espressione dantesca, il soffio interiore, insomma, no? L'anima intesa come soffio vitale, ma anche come fonte di ispirazione poetica. Psiché, appunto. Qual fia ristoro ai dì perduti un sasso, quindi quale consolazione sarà per i giorni perduti, espressione latina, questo è un accusativo con valore, un accusativo, buonanotte, un participio con valore predicativo, quindi quale consolazione potrà essere per la perdita della vita? Un sasso, cioè una pietra, che distingua le mie ossa dalle infinite ossa che la morte dissemina per la terra e per il mare. Vero è ben Pindemonte, anche la speme ultima dea fugge i sepolcri, involve tutte cose l'oblio nella sua notte, e una forza operosa le affatica di moto in moto, e l'uomo e le sue tombe, le estreme sembianze, le reliquie della terra e del ciel traveste il tempo. Anche la speranza, ultima dea, abbandona i sepolcri e l'oblio nella sua notte avvolge tutte le cose. E una forza inesauribile le affatica, cioè le sollecita, le sprona di moto in moto, di movimento in movimento. E il tempo traveste, cioè trasforma incessantemente l'uomo e le sue tombe. Le estreme sembianze, cioè le sembianze della morte, delle sembianze che si hanno nel momento della morte, le reliquie della terra, cioè le reliquie, i resti della terra e del cielo. Il tempo è destinato a consumare ogni cosa. Ecco, qui, anche qui è un'eco della elegia di Thomas Gray, pari è di tutto il fato, avito ceppo nella notte dei secoli nascoso, pompa di gloria, cioè solennità sarebbe, o di possanza, e quanto può ricchezza ottenere, donar beltade, tutto sorprende inevitabil punto, e ogni via dell'onore guida alla tomba. Cioè, qui c'è un po' il motivo del tempus ebax, no? Il tempo che tutto, il tempo vorace che tutto consuma, che non guarda in faccia niente. Ma nel caso di Foscolo questo motivo si sovrappone, si fonde con l'idea lucreziana della materia che è soggetta ad una incessante trasformazione e che sembra risorgere sempre da se stessa, no? Nulla si crea e nulla si distrugge, un principio che diventerà tipico del pensiero degli alchimisti, ma che si ritroverà anche nella chimica, la legge di Lavoisier, in fin dei conti, no? Dice qualcosa di simile, in modo più rigoroso ovviamente, no? In fin dei conti anche nell'ateo e materialista Foscolo c'è un'ansia di sopravvivenza, di immortalità, di rinascita, ma è sempre legata alla materia, c'è una sorta di eternità della materia, quasi di mistica della materia, si potrebbe dire, no? Questo è un aspetto della poesia che emerge proprio dal livello intertestuale, perché si potrebbe citare Lucrezio, no? Ovviamente, il primo libro del De Rerum Natura. Omni parensi adem rerum commune sepulcrum, ergo terra tibi libatur, et aucta recrescit. No, bellissimo verso. Omni parensi adem rerum commune sepulcrum, la madre di tutte le cose, la madre universale. Omni parensi è anche il comune sepolcro di tutte le cose. Dunque la terra rende omaggio, rende sacrificio a te e aucta recrescit, cioè rinnovata ricresce. Quindi la materia che è costantemente rinnovata da questo ciclo di distruzione e rinascita, ma sempre legata alla materia, senza una prospettiva metafisica, perché come è noto, secondo Lucrezio e anche secondo il materialista Foscolo, l'anima individuale non è immortale, sebbene nell'Ortis, ad esempio, ci siano riferimenti costanti alle sacre scritture, ma sempre in un'ottica esclusivamente letteraria, non spirituale, non religiosa. Lo stesso Foscolo chiarì la differenza fra il proprio tra la propria visione dei sepolcri, quella di Thomas Gray ad esempio, poeti cattolici, cristiani comunque come Thomas Gray vedevano nella tomba una sorta di anticamera della risurrezione, no? Nella vita ultraterrena. Foscolo invece considerava, come gli stesso scrive, i sepolcri politicamente, da un punto di vista politico, cioè per l'esempio che potevano offrire ai posteri, modello insomma di grandi imprese. Così paradossalmente proprio nei sepolcri era riposta la speranza di un risorgimento, si potrebbe proprio dire, il risorgimento dell'Italia, no? In questo senso non era del tutto sbagliata la prospettiva di chi come De Sanctis ad esempio vedeva in Foscolo un profeta del risorgimento, ecco. Cioè dell'indipendenza dell'Italia, ecco. Nell'Ortis c'è una pagina molto suggestiva. La materia è tornata alla materia, nulla scema, nulla cresce, nulla si perde qua giù. Tutto si trasforma e si riproduce. Ecco. Proprio osservando un cimitero, ecco, nell'Ortis c'è questa immagine. È significativo che si possa citare anche un passo di Petrarca, Rime, 142 versi 25-26. Selve, sassi, campagne, fiumi e poggi, quanto è creato vince e cambia il tempo, ecco, no? Il tempo cambia costantemente, muta, ecco, senza posa, tutte le forme, tutte le creature, tutti gli enti. Ma questa visione dell'eternità, perché è anche l'idea di fin dei conti questo ciclo assiduo di distruzione e rinascita finisce per creare una sorta di eternità immanente e materica. Questa idea dell'eternità si trova nel trionfo dell'eternità, appunto, di Petrarca, anche se nel caso di Petrarca si tratta di un'eternità teologica divina, nel caso di Foscolo è un'eternità calata nella materia, è come se all'interno della materia ci fosse l'eternità. E questa è un'intuizione davvero geniale, perché la fisica di oggi, Carlo Rovelli ad esempio, la fisica di oggi ha dimostrato che i costituenti minimi della materia sono governati da equazioni in cui non c'è la variabile tempo. La variabile tempo non c'è in quelle equazioni, quindi è davvero singolare, no? È come se il tempo fosse sovrastato, almeno per chi ci crede, da una dimensione trascendente, da un'eternità superiore, no? Iperurania, tempus imago eternitatis, no? Il tempo immagine mobile dell'eternità, come diceva Platone. Ma c'è anche un'altra eternità, come se ci fosse un'eternità supera e un'eternità infera, perché c'è anche un'altra eternità racchiusa invece nelle profondità più oscure, più insondabili della materia, no? E questo è un punto, insomma, no? Questo pensiero merita sviluppo, come diceva a volte Leopardi dello Zibaldone, no? Buttava lì una riflessione: questo pensiero merita sviluppo, ma adesso non c'è tempo. Allora, ma perché pria del tempo a sé il mortale invidierà l'illusion che spento pur lo sofferma al limitar di vite? Quindi, dopo aver apparentemente negato l'importanza dei sepolcri, qui invece Foscolo la ribadisce, dice: ma perché mai l'uomo dovrebbe negarsi anche l'illusione che ancora, pure sebbene sia morto, lo trattiene al di qua della soglia della morte? Non vive egli forse anche sottoterra, quando gli sarà muta l'armonia del giorno? Questa è una bellissima sinestesia, che veramente non associa tanto la luce al suono, quanto li nega entrambi, no? Gli sarà muta l'armonia del giorno, non vedrà, non sentirà più la luce del giorno. La luce è anche armonia, quindi può essere associata anche al suono, ma la morte spegne sia la voce della luce che l'intensità visiva. Se può destarla con soavi cure nella mente dei suoi, ecco, se può ancora ridestare questa memoria attraverso le dolci cure dei sepolcri nella mente dei suoi cari. Celeste è questa corrispondenza d'amorosi sensi, verso rimasto celebre, corrispondenza d'amorosi sensi, sembra quasi una sorta di rilettura in chiave totalmente laica del corpo mistico cristiano, il corpus mysticum, questa sorta di grande corpo metafisico eterno che unisce i vivi ai defunti, no? Tutti abbracciati nel grembo della Chiesa e del sepolcro di Cristo. Celeste è questa corrispondenza, notate celeste, no? L'aggettivo celeste, che è un aggettivo tipicamente religioso, no? Che riguarda la sfera del sacro, che viene però usato qui da Lateo Foscolo. E quindi la religione non è priva di valore, perché se non altro come illusione, dice Foscolo, come fonte di suggestione poetica, può essere significativa. Beh, questo è vero, la bellezza della religione può essere colta anche da chi è ateo, no? Dunque, celeste questa corrispondenza d'amorosi sensi, celeste dote negli umani, e spesso per lei si vive con l'amico estinto, per lei c'è tramite questa corrispondenza, si vive con l'amico morto, l'amico morto continua a vivere insieme a noi, se pia la terra che lo raccolse infante, lo nutriva nel suo grembo materno, ultimo asilo, porgendo sacra le reliquie, renda dall'insultare dei nembi, dal profano piede del vulgo, e serbi un sasso il nome, e di fiori odorata arbore amica, le ceneri di molli ombre consoli. No. Quindi qui c'è questa immagine della terra come grande madre, come no, Magna Mater, Saturnia Tellus, un grembo da cui tutto nasce e a cui tutto torna, no? Come in una sorta di ritorno all'uno, come direbbe Plotino, insomma, un concetto della filosofia neoplatonica che però è paradossalmente riferito ad una visione materialistica, non alla visione astratta, idealizzata, spiritualistica del neoplatonismo. Qui c'è una sorta di platonismo della materia, insomma, di mistica dell'immanenza, si potrebbe dire. Il profano piede del volgo, no? Citazione oraziana, odi profanum vulgus, vulgus è neutro, anche se esce in us. No. E Servi, ecco, qui c'è, no? La bellezza della natura, la suavità della natura, un albero odoroso di fiori che consola con la sua ombra molle, cioè, amabile, delicata, tenera, le ceneri, cioè il sepolcro. E c'è la famosa frase rimasta proverbiale: sol chi non lascia eredità d'affetti, poca gioia ha del burna. Quindi, no, insomma, soltanto chi non lascia dietro di sé, dopo di sé, qualcuno che lo ricordi, non è contento di morire. Beh, insomma, lì, adesso, effettivamente è un discorso che dal punto di vista razionale è difficile da seguire, insomma, non è che, anzi, casomai uno pensa, cioè, il dolore della morte è reso ancora più intenso dal pensiero dei propri familiari che sopravvivranno senza di noi, no? Comunque, vabbè, si tratta di un'illusione, no? Illusione. C'è una pagina celebre dell'Ortis, no? Illusioni, grida il filosofo, or non è tutto illusione, no? Foscolo, che aveva una visione profondamente pessimistica, diceva, ma tutto, insomma, l'amore, l'immortalità, la gloria, forse anche la patria, anche la poesia, tutto è illusione, ma sono comunque illusioni che ci aiutano a vivere in qualche modo, no? Oddio, forse è meglio che uno trovi ragioni anche un po' più piacevoli per vivere, ma insomma, vabbè, questo è un altro discorso. Allora, qui c'è un altro riferimento all'elegia di Thomas Gray, tanto per cambiare, no? Arma, ama, posar su qualche petto amato, l'ulma spirante, se buonanotte, l'alma spirante, guarda, e i moribondi lumi, chieggono altrui qualche pietosa stilla, fuori della tomba ancora grida la voce della natura, e fin nel cenere freddo degli usati desir vivono le fiamme. Immagine un po' sinistra, ma insomma, un po' come se dalle tombe noi potessimo ancora sentire la voce dei morti che ci chiedono di essere ricordati. Terribile questa immagine, così raddolcita da questa leggiadra immagine poetica, ma è veramente angosciante come idea. Ma anche qui, immancabilmente, Vincenzo Monti, cadrete ed alzerà natura al fine quel dolce grido che nel cuore si sente, tutti abbracciando con amplesso eguale. Terribile, lo sento nel cuore, le voci dei morti, no? che gli dicono ricordami, non dimenticarmi, si sente come abbracciato da tutti questi morti, che vivi e trapassati, insomma, in un unico abbraccio, ma questa contaminazione di vita e morte per noi moderni è una cosa assolutamente agghiacciante, perché la modernità, a partire proprio dall'editto di Saint-Cloud, mi sono dimenticato di dirvi che la causa occasionale della stesura dei sepolcri fu il famoso editto di Saint-Cloud, che Saint-Cloud, che non è, si non c'entra col cloud, oggi uno vede scritto, sarà il cloud quello là di internet, no? Era una città, questo editto, no? Che proibiva di seppellire i morti all'interno delle mura cittadine, in particolare nelle chiese. Ecco, questa separazione fra la città dei vivi e quella dei morti, oltre che da ovvi motivi igienici, era ispirata anche da una visione, da un fatto culturale, insomma, no? La mentalità del Settecento, così scientista, razionalista, giustamente introduce, no? Accentua l'idea della pubblica igiene, e quindi l'idea della pulizia, della prevenzione, della profilassi. Questo è anche un capitolo di storia della medicina, no? I passi avanti della modernità, fra tardo Settecento e primo Ottocento, insomma, l'illuminismo indubbiamente diede un grande impulso a questo progresso, no? Della profilassi medica, queste misure igieniche, ma anche dal punto di vista culturale, proprio la netta distinzione fra la città dei vivi che guardava al futuro e la città dei morti che doveva essere. I morti vengono come esiliati al di fuori della città. Imola, che era una sorta di cimitero a cielo aperto, perché tutte le chiese avevano il loro cimiterino lì davanti, anche dentro le chiese venivano sepolti i cadaveri, spesso con miasmi terribili, specialmente d'estate. Ci sono varie testimonianze su questo agghiacciante fenomeno. Ne parla anche Foscolo, no? Dice, non sempre, non con riferimento a Imola, ovviamente, con riferimento a tutte le chiese, insomma. Dei cadaveri, il lezzo misto all'incenso, no? I supplicanti contaminò il fetore dei cadaveri mescolato all'incenso, una cosa terribile, lugubre, no? Nel Medioevo, ad esempio, Medioevo che idealmente si protrae ben oltre la scoperta dell'America, secondo alcuni storici solo con la rivoluzione francese finisce davvero il Medioevo, nel Medioevo la morte e anche la putrefazione erano uno spettacolo abbastanza usuale, no? Anche nei cimiteri i cadaveri venivano lasciati per giorni, a volte sopra il sarcofago, no? E tutti potevano vedere e annusare la putrefazione. C'è quello splendido e terribile affresco nel Trionfo della Morte, nel Camposanto di Pisa. Si vede, no? Questo corteo con bellissime fanciulle tutte vestite a festa, che a un certo punto si imbattono in una bara scoperchiata. Si vede il cadavere gonfio, orribile, no? E c'è anche il gesto molto realistico di un cavaliere che si porta le dita al naso per tapparselo, no? E ora queste visioni che per noi sono assolutamente terrificanti, no? Beh, sì, nell'antichità, nel Medioevo, ma anche nell'età della Controriforma, non lo erano altrettanto, anzi questo memento mori, no? Questo continuo ricordo della morte, della caducità, del disfacimento inevitabile, era forse parte integrante della spiritualità così cupa e così oppressiva, che no? L'illuminismo dice no, separiamo nettamente la vita dalla morte, noi dobbiamo pensare alla vita, alla salute, all'igiene, dobbiamo guardare al futuro, la città deve essere la città dei vivi, e i morti, mandiamoli in esilio. No? E il cimitero del Piratello, va bene, cimitero monumentale, il primo nucleo del cimitero del Piratello, con quelle splendide, fra l'altro, sculture neoclassiche di Cincinnato Baruzzi, allievo prediletto del Canova, fu creato proprio in seguito alle disposizioni napoleoniche. Vabbè, chiusa la digressione. E c'è questo riferimento, no? L'editto di Saint-Cloud, verso 51, ovviamente salto, insomma, alcuni passaggi. Pur nuova legge impone oggi i sepolcri fuor de guardi pietosi e in nome ai morti contende. E qui Foscolo sembra giudicare negativamente questa iniziativa di impedire impedire la sepoltura dei morti nelle chiese. Anche per ragioni sociali, perché la sepoltura nelle chiese, queste tombe monumentali all'interno delle chiese, accentuavano la distinzione netta, la gerarchia, la discriminazione fra nobili e poveri, no? Perché i nobili potevano permettersi queste tombe monumentali, i poveri ovviamente no. Ma in realtà Foscolo non difende affatto l'usanza così macabra e così pericolosa anche per la salute pubblica di seppellire i morti nelle chiese. Anzi, dice, è possibile seppellire i morti anche senza queste conseguenze così lugubri, no? Ecco, c'è al verso 91, no? Dal di che nozze tribunali ad are d'era le umane belve essere pietose di se stesse d'altrui toglieno i vivi all'etere maligno dalle fiere i miserandi avanzi che natura con veci eterne a sensi altri destina. Quindi fin dal giorno in cui, qui c'è un riferimento a Vico, no? Il pensiero di Vico che aveva sottolineato la funzione civilizzatrice di nozze tribunali d'are, cioè riti nuziali, tribunali, cioè l'esercizio della giustizia, e are, altari. Ecco. Forse lo riconosce la funzione civilizzatrice della religione, pur essendo ateo. Dier, cioè concessero alle belve umane essere pietose, cioè di avere una forma di pietas, di devozione nei confronti di se stesse e del prossimo. I vivi sottraevano all'etere maligno, cioè all'aria malevola, maligna, nociva, e alle fiere i miserabili avanzi, i poveri resti, insomma, che la natura con veci eterne, cioè con cicli assidui, continui, destina a sensi altri, cioè tramuta, trasforma in altre forme di vita. Ecco ancora questa idea del una sorta di eterno ritorno dell'uguale, concetto stoico, ma privato di qualsiasi carattere metafisico, riferito ai cicli della materia. Testimonianza ai fasti erano le tombe, ed are ai figli, e uscirono quindi responsi dei domestici lari, e fu temuto sulla polve degli avi il giuramento, religion che con diversi riti le virtù patrie e la pietà congiunta tradussero per lungo ordine d'anni. Verso bellissimo questo, tradussero, cioè trasmisero per lungo ordine d'anni, cioè lungo un periodo lunghissimo di tempo. Quindi sì, un tempo, dice Foscolo, le tombe erano non soltanto non soltanto monumenta, nel senso di oggetto di celebrazione, di venerazione, di ricordo, ma erano anche una garanzia del fidus, no? Del patto sociale, in qualche misura, perché i giuramenti pronunciati in nome dei defunti, no? Erano considerati sacri. Il passo che viene citato in esergo, no? Alcune antologie lo omettono, ma è importante perché si tratta di un principio giuridico fondamentale. Ecco, qui c'è quella digressione abbastanza macabra. Non sempre i sassi sepolcrali, i templi fean pavimento, né agli incensi avvolto dei cadaveri il lezzo i supplicanti contaminò. Quindi, non sempre le lapidi furono pavimento per le chiese, né il fetore dei cadaveri mescolato all'incenso contaminò i fedeli, i supplicanti, né le città fur meste d'effigiati scheletri, non sempre ci furono per le città quelle figurazioni medievali, no? Il trionfo della morte, la danza degli scheletri, non solo medievali, anche nella pittura del 600 si trovano questi teschi terrificanti, no? Simbolo del memento mori, c'è anche tutta una poesia sepolcrale, grande. La poesia sepolcrale non nasce nel Settecento, di solito si fa riferimento alla poesia sepolcrale settecentesca, ma dunque non ricordo se vi ho fatto leggere, credo di sì, quei sonetti di Gongora, ad esempio, il grande poeta barocco spagnolo, alcuni di quei sonetti sono proprio ispirati al motivo sepolcrale, in questo senso tipicamente barocco della morte, della caducità, no? Mentre, no, abbiamo visto che l'illuminismo, no, dice no, basta, i morti, cacciamoli via lontano dalla città, via, qua bisogna pensare alla vita, alla gioia, alla libertà, alla democrazia, al progresso, insomma, no? Il nostro mondo, il mondo attuale, è ossessionato, anzi ha rimosso proprio l'idea della morte, no? la solitudine del morente, come la chiama Hans Jonas, no? Oggi non si muore più in casa, si muore all'ospizio, si muore in ospedale. L'eutanasia si affermerà sempre di più, perché l'uomo, non dico giustamente, ma insomma anche logicamente, vuole essere padrone della propria morte, decidere quando morire, come morire. Ecco, il discorso sarebbe lungo, casomai, vabbè, un'altra volta. Allora, le madri balzano, ecco, qui c'è una ipotiposi, si chiama in retorica, ecco. Ipotiposi, insomma, una rappresentazione al presente, così immediata, diretta, una immagine, un brusco passaggio al presente, no? Un po' come l'infinito storico del latino, no? Solo che il verbo è all'infinito, qui invece le madri balzano nei sogni esterrefatte e tendono nude le braccia sull'amato capo del loro caro lattante, onde non desti il gemer lungo di persona morta, chiedente la venal prece agli eredi dal santuario. Cioè, qui si fa riferimento all'usanza, o meglio alla credenza popolare, secondo cui le anime del purgatorio durante la notte facevano sentire i propri lamenti, per brutto segno, quando parla di sepolcri e tossici, questo lamento che fa quasi pensare a Pascoli, no? Il lamento funebre nella notte, no? Il lamento dei defunti che chiedono ai vivi di far dire delle messe in suffragio per le anime dei morti, no? Ma cipressi e cedri, qui c'è netta la contrapposizione fra il medioevo così cupo, cristiano, lugubre, sinistro, e il mondo classico, che invece viene dipinto come sereno, gioioso, armonioso, leggiadro, ecco, no? Questa contrapposizione così netta, che si ritroverà ad esempio in Carducci, no? In Carducci diventerà un motivo ricorrente, ma anche in Nietzsche, in fin dei conti, no? Questa contrapposizione fra la solarità del mondo classico, no? E invece la cupezza e il nichilismo del cristianesimo. Ma cipressi e cedri di puri effluvi, i zefiri impregnando, zefiri sarebbero i venti, puri effluvi, cioè profumi puri, salutari, no? C'è questa idea della purezza contrapposta alla contaminazione, ma è un concetto che non fa pensare casomai al greco miasma, no? Questa idea, d'altra parte i miasmi dei cadaveri, no? Cioè, miasma, cioè l'idea della contaminazione a cui si contrappone la catharsis, il catharismos, no? Lustratio, qui c'è anche un riferimento, ma andiamo con ordine. Ma cipressi, perenne verde protendean sull'urne per memoria perenne il verde di queste piante, perenne, eterna deve essere la memoria, il ricordo dei posteri, e preziosi vasi accoglien le lacrime votive. Ecco, qui c'è un'immagine straordinaria. Rapian gli amici una favilla al sole a illuminare la sotterranea notte, perché gli occhi dell'uomo cercano morendo il sole, e tutti l'ultimo sospiro mandano i petti alla fuggente luce, come Goethe morente che chiede più luce, no? Più luce nel momento in cui muore, almeno secondo le testimonianze che abbiamo. Qui c'è come al solito un eco da Vincenzo Monti, no? Senza Monti Foscolo non esisterebbe, insomma, no? La musogogna, cioè la nascita delle muse, no? E Giacinti e Melisse ella cogliea, amor d'etere e nari, e quel che verno unque non teme l'amaranto eterno. Verno unque non teme, vuol dire che non teme mai l'inverno, non appassisce mai, insomma, l'amaranto eterno. chissà perché Monti non viene considerato più un grande poeta, tutti parlano male del povero Monti, dicono, ma questo Vincenzo Monti era solo un retore, un retore. Non si è ancora abbandonata la visione così de sanctisiana, romantica, per cui, no? Poeta neoclassico, freddo, accademico, algido, ma senza di lui Foscolo e Leopardi sarebbero difficilmente immaginabili. Le lampade votive, le candele votive sono come scintille rubate al sole per rischiarare la notte dei defunti, perché tutti morendo cercano il sole, tutti i petti, tutti, i cuori mandano l'ultimo sospiro alla luce che svanisce. Ecco, no? Viene in mente anche Catullo, no? I versi celebri, Nobis cum se melocidit brevis lux, nox est perpetuum adormienda, no? Quei versi straordinari, anche fonicamente, c'è proprio questa idea di una cupezza che è destinata a protrarsi per l'eternità sulle distese del tempo, no? Nox est perpetuum adormienda. Quando si sarà spento il nostro breve giorno, dovremo dormire un'unica eterna notte. Vabbè. Discorsi proprio che insomma, non tengono propriamente di buon umore, insomma. Poi Catullo uno lo ricorda insomma, in genere per quei versi più scherzosi e anche un po' lascivi, insomma, dall'altro lato, cioè, la consapevolezza che dobbiamo morire, quindi, dice, no? Le fontane versando acque lustrali, amaranti educavano viole sulla funebre zolla, e chi sedea li barlatte a raccontar sue pene, i cari estinti, una fragranza intorno sentia qual d'aura de beati elgi. No? Le fontane che versavano acque lustrali, le acque lustrali sono quelle purificatorie, purificatrici, insomma, no? Il rito cristiano del battesimo è anticipato dalla lustratio pagana. Il katharismos, come veniva chiamato in greco, il rito di purificazione. Chiunque entrava in contatto, fosse entrato in contatto con una creatura morta, era contaminato appunto, aveva subito il miasma di questo contatto con la morte e doveva purificarsi, liberarsi da questa contaminazione con queste acque sacre, acque lustrali appunto. Proprio quelle acque lustrali facevano crescere, educavano, è un latinismo molto ricercato, no? Tipicamente neoclassico, facevano crescere amaranti e viole sulla terra del sepolcro, e chi sedeva a versare latte, libar latte, o una libagione di latte in onore dei defunti, e a raccontare le proprie pene ai cari estinti, cioè il sepolcro era come un tramite di dialogo fra vivi e defunti, anche se la voce dei morti si può sentire solo nel proprio cuore, nella propria mente, la si può solo immaginare. Sentiva intorno un profumo, una fragranza come di aura, soffio dei beati elgi, cioè dei campi elgi, l'oltretomba pagana che viene contrapposto, oltretomba visto come locus amenus, contrapposto invece all'inferno cristiano. Dunque, ecco, qui potete saltare al verso 151. Ai grigie cose il forte. Ecco, Foscolo di per sé tende a passare bruscamente da un argomento all'altro. Questo gli fu anche rimproverato, in particolare un critico, un letterato, l'abate Aimé Guillon. Ho caricato nello spazio web il testo della risposta di Foscolo a Guillon. Guillon l'aveva rimproverato proprio per... Beh, è tutto scritto lì, comunque non sto a ripeterlo. Guillon l'aveva rimproverato per l'eccessiva oscurità del suo stile, questi passaggi troppo bruschi. È un po' quello che si dice anche oggi, no? Molti poeti se lo sentono dire, ma come scrivi difficile, non si capisce niente. Come scrivi difficile, parla come mangi, sono le solite cretinate. Beh, il discorso di Ghiglione era un po' più raffinato, ma Foscolo gli rispose piuttosto piccato, insomma, gli dice: ma che cosa vuoi? Francese, tu che non capisci neanche bene l'italiano, pretendi di criticare i miei versi. Però al di là dell'aspetto polemico c'è una dichiarazione di poetica interessante, cioè lui dice: la poesia deve essere fatta di tessitura e transizioni, cioè il testo poetico è come un tessuto, un textus proprio, no? Etimologicamente, un intreccio di fili sottili che associano pensieri ed immagini spesso difformi, eterogenei, e le transizioni sono i delicatissimi passaggi da un pensiero all'altro, da un'immagine all'altra, no? Complessivamente non si può dire che I Sepolcri non siano un'opera unitaria, perché comunque c'è un filo conduttore, diciamo, che è il valore memoriale, così, e anche politico e civile dei Sepolcri. Ecco, un altro dei fulcri ideologici, come si diceva un tempo, del Carme è proprio qui, versi 151 e seguenti. Ai grigie cose il forte animo accendono, l'urne dei forti, o Pindemonte, e bella e santa fanno al peregrino la terra che le ricetta. Tipica domanda da maturità, proprio questa. Ai grigie cose il forte animo accendono, l'urne dei forti. Beh, voi non porterete neanche Foscolo alla maturità, quindi cosa sto a dire? Ma comunque, quindi le urne dei forti, cioè i sepolcri dei grandi uomini, infiammano un animo nobile. Ecco, lo pseudo Longino nel celebre trattato sul sublime, per ipsus, dicevano, che cos'è il sublime? Il sublime è la risonanza di una grande anima, cioè pensieri elevati, nobili, sublimi appunto, trovano in un'anima altrettanto nobile, altrettanto disposta ad accoglierli, una degna risonanza, proprio come se fosse uno strumento musicale. L'anima stessa, no? Per gli antichi era come uno strumento musicale, l'anima era come l'armonia che teneva insieme e manteneva coese le parti del corpo, le diverse facoltà dell'intelletto, dello spirito, dei sensi, come in un concerto, come in un accordo. No, e questa anima individuale era copula mundi, come diranno i neoplatonici. Era proprio questo nodo costituito dall'anima dell'uomo a tenere unito l'universo. L'uomo misura di tutte le cose, l'uomo come microcosmo, specchio del macrocosmo. Dice: è bella e santa fanno al peregrino la terra che le ricetta, quindi rendono bella, qui, onorevole e sacra al viaggiatore la terra che le ospita. Io quando il monumento vidi ove posa il corpo di quel grande. Anche questa idea fondamentale, peraltro, si trova, guardate un po', in Vincenzo Monti, il bardo della Selva Nera, calcando l'Itala polve, ti rammenta dunque che tutta è sacra, che il tuo piè calpesta la tomba degli eroi, ch'ivi al riposo l'ombre dei forti, e che dei forti i figli hanno al piede la catena e non al cuore, che in quel cor non morì, ma dorme il fuoco dell'antica virtù, dorme il coraggio, dormono le grandi passioni. Perché non viene considerato anche Monti un profeta del Risorgimento, visto che in fin dei conti, d'accordo, cambiò idea più volte, però qui diede una ottima espressione poetica, che non ha nulla da invidiare a quella di Foscolo, no? A questa ansia di palingenesi nazionale, no? Io quando il monumento vidi ove posa il corpo di quel grande che temprando lo scettro ai regnatori gli allorne sfronda e dalle genti svela di che lacrime grondi e di che sangue. Qui inizia la rassegna dei grandi uomini che sono sepolti a Santa Croce a Firenze, no? E qui si parla di Machiavelli. Qui Foscolo inaugura una linea interpretativa che si ritroverà in Gramsci, ad esempio, prima in De Sanctis, poi in Gramsci, cioè l'idea che Machiavelli, con il pretesto o sottocolore, come avrebbe detto Guicciardini, di illustrare le consuetudini, i principi, le norme dell'agire politico, ecco, in realtà avrebbe rivelato al popolo le crudeltà nascoste, i marchingegni perversi, le segrete e celate storture, ecco, del potere che è sempre malvagio. E in effetti, questa idea della malvagità del potere, insomma, non esistono poteri buoni, come diceva quello, beh, si trova già in Foscolo, soprattutto nell'Ortis, no? L'uomo politico non può fare a meno di compiere il male, è inevitabile, tutt'al più potrà scegliere, potrà optare per il male minore, ecco, no? Machiavelli, no? Se ben ricordate, c'è spesso questa espressione, fu necessitato, no? Questa idea della necessità, l'uomo politico deve compiere a volte il male, insomma deve agire senza seguire i principi della morale comune o della morale religiosa, ecco, questa idea dell'autonomia della politica, dalla morale e dalla religione, c'è un problema che le tragedie del Novecento renderanno ancora più pressante, insomma, ma qui sarebbe un discorso lungo. Comunque, no, il potere gronda sempre di lacrime e di sangue, no? Temprando lo scettro dei venatori, cioè dando l'impressione di voler insegnare ai governanti come si gestisce il potere, in realtà rivelò del potere stesso la profonda malvagità, l'intrinseca perversità. E l'arca di colui che nuovo Olimpo alzò in Roma, ai celesti, ecco, dopo le nefandezze della politica, invece la sublime attività intellettuale degli artisti e degli scienziati, questo è Michelangelo, colui che elevò in Roma un nuovo Olimpo, no? Michelangelo viene visto, viene riletto con, così, alla luce della classicità, no? Un nuovo Olimpo, la Cappella Sistina, ovviamente. E di chi vide sotto l'etereo padiglion rotarsi più mondi e il sole irradiarli in moto. Galileo, cioè colui che vide ruotare sotto la volta del cielo più mondi e il sole immobile illuminarli, cosicché all'anglo, cioè a Newton, che poi sviluppò queste ricerche, che tanta ala vi stese, sgombrò primo le vie del firmamento, cioè per la prima volta mostrò le orbite delle stelle e dei pianeti, le vie del firmamento. Te beata gridai per le felici aure pregne di vita e per i lavacri che dai suoi giochi a te versa Appennino. Qui Foscolo si rivolge alla città di Firenze, no? Fa riferimento ai colli fiesolani che ispireranno poi Le Grazie, la sua ultima incompiuta opera di cui non leggeremo nulla. Lieta dell'aer tuo veste la luna di luce limpidissima i tuoi colli, bellissima questa allitterazione della L, no? Lieta la luna di luce limpidissima, questa L con la sua liquidità dà proprio una sensazione di fluidità, di chiarezza, di nitore, no? La luna lieta della tua aria, veste di luce limpidissima i tuoi colli in festa per la vendemmia, e le convalli popolate di case, di uliveti, mille di fiori al ciel mandano incensi. Ecco, vedete, incensi, prima c'era riferimento all'incenso, quello della chiesa, mescolato al fetore dei cadaveri, ma qui invece avete incensi metaforici, cioè il profumo dei fiori, decisamente contrapposto a quell'ombre delle chiese. E tu prima a Firenze udivi il Carme che allegrò ira il Ghibellin fuggiasco. Qui Dante viene definito Ghibellin fuggiasco, anche se era guelfo bianco, non era ghibellino. In questa immagine di Dante come ghibellino si trova proprio in Vincenzo Monti, pensate un po', nell'epistola alla contessa Malaspina. Ho caricato su internet un file in cui cui si trovano i principali brani di Monti, da cui Foscolo trasse spunti fondamentali. Davvero, senza Monti non esisterebbero i sepolcri. Altro. Vabbè, allora praticamente vivi il carme che e tu i cari parenti e l'idioma destia quel dolce di Calvio Pelabbro che amore in Grecia nudo e nudo in Roma d'un velo candidissimo adornando rendea nel grembo a Venere celeste. Qui si parla di Petrarca che secondo Foscolo nobilitò la poesia d'amore, no? Contrapponendo alla lascivia e alla sensualità del mondo classico una visione platonica, idealizzata, spirituale e intellettuale. Ma più beata che in un tempio accolte serbi l'Itale glorie, uniche forse, da che le mal vietate Alpi e l'alterna onnipotenza delle umane sorti, armi e sostanze ti invadeano ed are e patria e tranne la memoria, tutto. Che ove speme di gloria gli animosi intelletti rifulghe dall'Italia, quindi trarrem gli auspici. Dice, ma ancora più felice perché custodisci in Santa Croce le grandi anime, i grandi spiriti della tradizione italiana. Dice, l'unica cosa che ci rimane dopo che le alterne vicende della storia, la violenza degli eserciti ci hanno portato via tutto. Armi, sostanze, altari, patria, tutto tranne la memoria. Ecco, ci resta soltanto la memoria, la tradizione culturale. Questo è un messaggio importante, anche se vabbè, oggi non c'è più il problema dell'Italia dominata dallo straniero, o meglio è dominata, ma è dominata economicamente, ecco, formalmente diciamo, è uno Stato indipendente. Ma no, quindi. Vabbè, è chiaro che noi economicamente non potremo mai competere con la Cina o con gli Stati Uniti, andando avanti saremo sempre più un paese di serie B, insomma, ma se non altro ci resta la nostra memoria culturale, ecco, possiamo aggrapparci a quella, meglio di niente. Che ove speme di gloria gli animosi intelletti rifulghe dall'Italia, quindi trarremo gli auspici, dice Foscolo. Quando ci saranno maggiori speranze per l'Italia, noi trarremo i nostri auspici, cioè trarremo ispirazione, ecco, proprio dai sepolcri dei grandi. Tema fondamentale che si trova già in Vincenzo Monti, come abbiamo visto, no? Nel Bardo della Selva Nera. Dunque, si può leggere come frammento lirico, diciamo, il passo che va dal verso 226 al 234, no? E me che i tempi il desio d'onore fan per diversa gente irro fuggitivo, me ad evocar gli eroi chiamin le muse del mortale pensiero animatrici. Siedon custodi dei sepolcri e quando il tempo con sue fredde ali spazza fin le rovine, le pimplee fan lieti di lor canto i deserti e l'armonia vince di 1000 secoli il silenzio. Qui Foscolo dipinge se stesso come esule, no? Espressione questa, ma per diversa gente io fuggitivo, che si trova anche in Asa 5, no? Ma adesso no, forse sono stanco perché è tardi. In uno dei tre sonetti celebri comunque si trova questa immagine, però forse perché della fatal quiete, no? Un disio non andrò sempre fuggendo di gente in gente, no, in morte del fratello Giovanni. Un disio non andrò sempre fuggendo di gente in gente. è un'espressione che si trova di origine catulliana, no? Si trova nel Carme 101 di Catullo, forse la prima vera elegia della poesia latina, anche se Catullo non era ancora un'elegia, con multa sperge intestet, multa pericura vectus, no? Condotto attraverso vari popoli e vari mari, sarebbe tradotto alla lettera, brutta traduzione. Comunque, no, né ad evocare gli eroi chiamino le muse del mortale pensiero animatrici, quindi mi chiamino ad evocare gli eroi, le muse che animano il pensiero dei mortali. Ecco, le muse sono custodi dei sepolcri, no? Questa idea della, le muse che vengono come adeguate, vengono come adibite a sacerdotesse di un rito funebre, quasi quasi sono muse quasi rappresentate come vestali. Come vestali che devono salvaguardare la memoria, figlie di Mnemosine, del resto, figlie della memoria, secondo Omero, no? Le muse siedono come custodi dei sepolcri quando il tempo con le sue fredde ali, immagine oraziana questa, no? Delle fredde ali, in Orazio sono le fredde ali della morte, vi spazza fin le rovine, cioè cancella tutto, anche le rovine, le plumplee, cioè le muse appunto, allietano con il loro canto i deserti. C'è questa splendida immagine, l'armonia vince di 1000 secoli il silenzio. Ecco, è come se i silenzi della storia, i vuoti della storia, le lacune scavate dall'oblio fossero un immenso deserto che però viene pervaso e raddolcito, insomma, dall'armonia delle muse, figlie melodiose della memoria. E c'è una nota di Foscolo, Etiam periere ruine, che si trova in Lucano. Vabbè, bisognerebbe andare a cercare il contesto preciso. Allora, e il Carme si conclude, insomma, con questo canto di Cassandra. Qui Foscolo si ispirava alla Alessandra di Licofrone, un poeta oggi un po' dimenticato, forse noto soltanto agli specialisti, insomma, no? Di fatto una lunga monodia tragica, non è una vera tragedia, testo di età ellenistica. Non è esatto definirlo l'ultima tragedia greca perché è di fatto come una monodia tragica, non è una vera tragedia, ma stilisticamente è molto Licofrone, insomma, un poeta straordinario, difficilissimo da leggere perché non nomina mai direttamente un luogo o un personaggio, ricorre a queste continue perifrasi, è come se dicesse sempre altro, no? L'oggetto del discorso è sempre così evanescente, sfuggente, criptico, no? Ma proprio questa oscurità, questa difficoltà lo rendono affascinante e moderno, paradossalmente moderno. Ecco, Licofrone, uno dei modelli, degli antecedenti di Foscolo, forse il meno noto, il più dimenticato. Ad ogni modo, verso 258, ivi Cassandra, allor che il nume in petto le fea parlare di Troia, il dì mortale, parlare nel senso di preconizzare, profetizzare, venne, questo venne isolato all'inizio del verso, e all'ombre cantò Carme amoroso, e guidava i nepoti, e l'amoroso apprendeva lamento ai giovinetti. Questa rappresentazione ai limiti dell'ossimoro, un lamento amoroso, no? Amore ma anche lutto, no? Attaccamento alle radici, ma anche consapevole, malinconica consapevolezza, insomma, della distanza che ormai ci separa da esse. Cantò Carme amoroso e guidava i nepoti e l'amoroso, ecco. Noto qui una volta per tutte lo stile di Foscolo, un po' come quello di Omero, si si basa su queste riprese, formulari, no? Queste parole che tornano con sfumature di significato diverse. Questo è un punto su cui insiste nella risposta a Guillon, cioè una stessa parola che precisa il proprio significato, le proprie sfumature di significato, la propria gamma di significati, ricorrendo in contesti diversi, no? E assumendo come coloriture o risonanze, ecco, diverse a seconda delle parole a cui viene accostata, no? Un po' come un suono della musica che acquisisce funzioni diverse a seconda dell'accordo o della tonalità in cui si trova, il fenomeno noto come enarmonia, no? La enarmonia, una stessa nota che ha valori e funzioni diversi a seconda dell'atmosfera tonale in cui si trova. È una tecnica compositiva musicale proprio, no? Questo andrebbe approfondito. Ma e all'ombre cantò Carme amoroso e guidava i nipoti all'amoroso, no? Tipico esempio di epifora, quando la ripetizione della parola alla fine del verso. E diceva sospirando: o se mai d'argo, ove Altidide e di Laerte al figlio pascerete i cavalli, a voi permetta ritorno il cielo, invan la patria vostra cercherete. Questo se ha una funzione come deprecativa, ottativa, no? C'è anche una sfumatura desiderativa, insomma. Comunque dice: voi discendenti dei troiani, se mai un giorno potrete tornare dalla vostra prigionia, dal vostro esilio in Grecia, invano cercherete la vostra patria. Le mura, opera di Febo, sotto le loro reliquie fumeranno. Ecco, le mura, opera di Apollo, saranno, fumeranno, no? Un po' come le rovine di Troia in Virgilio, no? L'immagine delle rovine fumanti di Troia. Ma i penati di Troia avranno stanza in queste tombe, che da numi e dono servarne le miserie altero nome. Dice: ma i penati di Troia, cioè le divinità degli antenati troiani, dimoreranno in queste tombe, perché è un dono dei numi, degli dei, conservare anche nella disgrazia altero nome, cioè una fierezza. E voi palme e cipressi che le nuore piantan di Priamo, e crescerete ai presto di vedovili lacrime innaffiati, proteggete i miei padri. Ecco, dice: e voi palme e cipressi che piantano le nuore di Priamo, dice, crescerete presto innaffiati delle lacrime delle vedove. Un po' come, se vogliamo, il basilico di Boccaccio nella novella di Elisabetta da Messina, che cresceva fecondato, nutrito, insomma, dalle lacrime della povera Elisabetta. Proteggete i miei padri. E chi la scure a sterrapio dalle devote frondi, men si dorrà di consanguinei lutti e santamente toccherà l'altare. Le piante sacre non si potevano abbattere, non si potevano estirpare, no? Forse avete letto l'orazione per l'ulivo sacro, no? Di Lisia, mi sembra di Lisia, che si riferisce proprio a questo tabù, diciamo, questo tabù rituale. Proteggete i miei padri, indì vedrete, vedete ancora la ripetizione, no? Proteggete i miei padri, anafora anche se a distanza diversi. Un dì vedrete mendico un cieco errar sotto le vostre antichissime ombre e brancolando penetrar negli avelli e abbracciar l'urne e interrogarle. Immagine celebre, no, Omero, il cantore cieco, che brancola, appunto essendo cieco, entra negli avelli, cioè nei sepolcri, e abbraccia le urne cinerarie dei morti e le interroga i defunti, no? Per avere un responso. Beh, in fin dei conti è quello che facciamo tutti quando studiamo la storia, quando studiamo la letteratura. Cosa facciamo? Continuiamo a porre domande ai morti, no? Leggere un classico significa interrogarlo, anche se non può risponderci, ma noi possiamo sentire la sua voce dentro di noi, no? Proprio come no? Abbiamo visto prima, no, l'immagine del sospiro che esce metaforicamente, no? Dai sepolcri e raggiunge il nostro orecchio e ci chiede, no? Ricordateci, no? Non dimenticateci, continuate a leggerci e anche così in questa notte, no? Io stesso, quei pochi che ascolteranno questa registrazione, beh, compiranno una sorta di rito di necromanzia, no? Se vogliamo. Ma vabbè, oddio, non è che proprio questa cosa metta di buon umore, ma insomma, data anche la situazione, vabbè. Gemeranno gli antri segreti e tutta narrerà la tomba, igli raso due volte, due risorto, splendidamente sulle mute vie, per far più bello l'ultimo trofeo ai fatati pelidi. Tra l'altro anche questa immagine di Omero che abbraccia le urne, no, è un'immagine che si trova in Ossian, ecco, Ossian tradotto da Melchiorre Cesarotti, dice: oscuro e mesto talor mi assido alla tua tomba accanto e vi brancolo sopra. Ecco, no? Ovviamente Foscolo, riprendendo questi motivi, vi infonde una maggiore profondità, una maggiore ricchezza di significati. Gemeranno gli antri secreti, cioè risuonerà come una campana, insomma, la profondità di questi antri, e tutta la tomba narrerà. Ilio raso, cioè, Troia rasa al suolo due volte, altrettanto ricostruita splendidamente sulle vie silenziose per rendere ancora più glorioso, quindi bello proprio nel senso del greco kalos, cioè che significa anche glorioso, l'ultimo trofeo ai fatati pelidi, fatati perché la loro vittoria era voluta dal fato contro il quale nessuno può nulla. Il sacro vate, placando quelle afflitte alme col canto, i princi argivi eternerà, per quante abbraccia terre il gran padre oceano. Il sacro vate, cioè appunto Omero, placando quelle anime afflitte con il canto, renderà eterni i principi argivi, per tutte le terre che abbraccia il gran padre oceano, cioè il grande padre oceano. Eternare questo verbo dantesco, questo splendido verbo dantesco, no? Dante che è rivolto a Brunetto Latini gli dice: no? Mi insegnavate come l'uomo si eterna, ecco, come l'uomo perpetua il proprio ricordo presso i posteri, ma nello stesso tempo entra in contatto, come in connessione, in comunione spirituale con verità eterne, no? Non ego dulcissimas veritates ubique potero contemplari, dice Dante, non potrò io forse, anche se isule, no? Contemplare ovunque le dolcissime verità. E tuo onore di piante, ecco, questa è la celebre conclusione, insomma, che sicuramente conoscete già perché è riportata in tutti i libri anche del biennio, insomma. E tuo onore di pianti, Ettore, avrai, ove fia santo e lacrimato il sangue per la patria versato, e finché il sole risplenderà sulle sciagure umane. Ecco. Tu, Ettore, anche se sconfitto, ecco, la grandezza titanica, prometeica dello sconfitto, che comunque ha lottato per un grande ideale, poi vabbè, non ce l'ha fatta, ma si è dovuto arrendere al fato. Avrai, dice, ove fia santo e lacrimato di sangue, dice, ovunque sia venerato e compianto il sangue versato per la patria, e finché il sole risplenderà sulle sciagure umane. C'è questo ultimo riferimento al sole, questo rapidissimo passaggio, come nello sguardo di un'inquadratura, insomma, dall'altezza limpida, pura del cielo alla meschinità della terra, no? E ancora Vincenzo Monti, no? Il bardo della Selva Nera. Il petto ancora del sangue brutto, cioè sporco, per la patria versato. Ecco, quindi addirittura nella stessa posizione, proprio, no? Un calco isometrico del testo di Monti, di sangue per la patria versato. Ecco. che dire, beh, insomma, anche a me è venuta un po' di malinconia, sono andata anche in una circostanza non proprio lieta in cui ci troviamo a parlare, ma beh, dobbiamo fare anche Leopardi quest'anno, alla fine sarebbe interessante fare un lavoretto su Vincenzo Monti, maestro dimenticato, perché c'è poco da fare, se uno legge Foscolo e Leopardi, il caro vecchio è tanto vilipeso e rimosso Vincenzo Monti salta fuori ad ogni piè sospinto, non esisterebbero Foscolo e Leopardi senza Vincenzo Monti, forse presero il meglio da Monti, no? E avevano anche il vantaggio di sapere il greco, quindi anche questo non era, certe sfumature che abbiamo visto, sfumature semantiche del testo di, cioè sfumature di significato del testo di Foscolo, difficilmente sarebbero concepibili senza una conoscenza del greco. Ma sì, forse la grandezza del poeta deriva anche, se non soprattutto, dalla sua capacità di sintesi. Cioè, poeta è colui che riesce, è come diceva Bukowski, no? La prosa dice poche cose impiegando molte parole, la poesia invece dice un mondo di cose impiegando poche parole. Questo è il vantaggio della poesia, ma anche la sua difficoltà, ovviamente, perché no, dum brevis esse laboro obscurus fio, no? Come diceva Orazio, proprio mentre mi sforzo di essere breve, di essere conciso, divento oscuro. Anch'io sono stato conciso, spero di non essere stato oscuro, anche se quando parlo dicono tutti che non si capisce niente. Anch'io potrei dire come Foscolo, insomma, il numero delle idee è limitato, le loro connessioni sono infinite e chi meglio combina, meglio scrive. Io non ho scritto qui, ho parlato, ma insomma, cosa devo dire? Buona lettura, buono studio. E che Dio ci protegga.